edizione. 7 maggio, stanno terminando le ore che hanno fatto voltare pagina all'Europa. Si è votato in Francia, si è votato in Grecia, si è votato in Serbia, si è votato in Germania. Ancora questa mattina si voterà in Italia e poi sarà il momento per l'Europa di voltare pagina. Allora, prima edizione di questa mattina, questa lunga notte elettorale ve la racconta, e ve la racconta a cominciare dalla Francia. François Hollande, presidente della Repubblica francese, ore 20 in punto, siamo a Parigi, Rue Solferino. François Hollande, presidente, e Rue Solferino sta esplodendo. Ce que je vous propose, il doit être à la hauteur de la France. È in piazza, ieri sera l'avete sentito, in Francia, a Parigi c'era il nostro Sergio Nava con la vittoria di, per raccontarci la vittoria di François Hollande 17 anni dopo François Mitterrand. In mezzo per la Francia c'è stato Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, tante sconfitte per la gauche francese. Ieri sera si è ripresa invece la Bastiglia con la festa parigina che state ascoltando. E allora il nuovo presidente francese si è subito rivolto proprio all'Europa promettendo un nuovo inizio. Les Français en ce 6 mai viennent de choisir le changement. Queste le prime parole di François Hollande, ve le racconteremo con il nostro inviato ancora più avanti. Poi nella notte lo hanno chiamato prima anche la Merkel, che lo ha subito invitato a Berlino, e anche il premier italiano Mario Monti, che ha proposto una stretta collaborazione. Nella notte anche la telefonata del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Oggi comincerà la nuova era per la Francia, ma anche per la Grecia. E allora un attimo di pausa per sentire come va sulle nostre strade, poi sentiremo anche cosa dicono i giornali di oggi. Prima edizione. E allora eccola la carrellata dei quotidiani, alcuni dei quotidiani che troverete oggi in edicola. La Repubblica, Hollande vince, la Francia va a sinistra. Corriere della Sera, Hollande vince, si apre la sfida in Europa. Francia, la svolta di Hollande, il titolo scelto dal Messaggero. La Stampa, che per la verità mette in ampio risalto lo scudetto della Juventus, ma c'è in prima pagina anche il voto in Europa. Francia e Grecia cambiano l'Europa. Lo scenario politico dei 27 esce profondamente modificato dalla domenica elettorale nei vari paesi. Questa è la carrellata dei titoli, vediamo un po' come lo affrontano i diversi quotidiani. La Repubblica, Monsieur Normale, la nuova Europa, scrive Bernardo Valli, raccontando proprio di Hollande, un socialista all'Eliseo dopo 17 anni, che dice ora l'Unione Europea deve cambiare. Sempre ambizioso, un nuovo potere che si installa al vertice di un grande paese, anche François Hollande, eletto settimo presidente della Quinta Repubblica, non sfugge alla regola, non deve trarre in inganno il titolo di Monsieur Normale che lui stesso si è dato per presentare come il contrario esatto di Nicolas Sarkozy. Bernardo Valli, che già va a fare un po' le pulci a Hollande, e poi però a fianco quello che preoccupa ora l'Europa, la Grecia con il voto caos, salgono i neonazisti, puniti invece i rigoristi che avevano garantito l'austerity chiesta dall'Europa per gli aiuti. Ora centristi e socialisti annunciano faremo il governo, ma per Atene la situazione non è facile. A fondo pagina, già vi dico, c'è anche la influenza italiana, dove a differenza della Francia, dove è stato boom di affluenza elettorale, invece in Italia almeno fino ad ora si sta votando pochissimo. Amministrativa, affluenza al 49,6%, calo di 6,2 punti rispetto al 2007. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 15. E poi il Corriere della Sera, e anche qui sono molti i commenti, l'apoteosi e le attese, Massimo Nava, un leader normale per tempi eccezionali, la sinistra torna al potere in Francia per la seconda volta dal dopoguerra con un socialista che entra all'Eliseo, e appunto ci ricorda Massimo Nava, la scelta dei francesi è consapevole e netta, come dimostra l'altissima partecipazione al voto, il progressivo movimento di adesione al progetto e alla persona di François Hollande. E poi a fianco però l'inutile voto dell'Atene che premia gli estremisti senza maggioranza. Ora bisognerà vedere che succederà ad Atene e questo peserà molto sull'Europa. Anche qui affluenza in calo, meno 6% oggi il verdetto dei partiti per quanto riguarda il fronte italiano. Chi vincerà queste amministrative? Scrive Michele Ainis. Ulisse, l'uomo che scampò all'ira dei ciclopi, dichiarando di chiamarsi nessuno. La stessa astuzia replicata dai partiti per sottrarsi ai furori antipartitici, aspettando che passi la nottata, anche se una notte polare durerà fino all'anno prossimo, quando le politiche mostreranno infine la vera faccia di nessuno. Un voto italiano tra le liste dominato dalle liste civiche e un'affluenza in deciso calo, un'astensione che per il momento predomina, questo per quanto riguarda il fronte italiano sul Corriere della Sera. Il Messaggero, anche qui la Francia che domina con l'arrivo di Hollande, la rivincita dell'uomo normale, scrive il Messaggero, ma anche l'addio di Sarkozy, se ne va un nemico dell'Italia, scrive il Messaggero. Addio a un nemico dell'Italia, a uno statista mancato, Nicolas Sarkozy, che dall'alto della sua piccolezza, di una presunta grandeur, rideva pubblicamente non soltanto di Berlusconi ma in generale del nostro paese. Quella sequenza ridanciana contro l'Italia andò in scena il 23 ottobre 2001 a Bruxelles con Angela Merkel. Oggi per Sarkozy la sconfitta, così il Messaggero. Anche qui ovviamente in Grecia voto invece contro l'euro, sconfitti i partiti del rigore e ora governabilità a rischio, i neonazisti in Parlamento e i timori dell'Europa per il futuro della Grecia. Francia e Grecia cambiano l'Europa, dicevamo il titolo della Stampa, che affianca le due immagini, quella di ieri sera in Francia con una netta vittoria di Hollande, quindi una strada segnata e chiara per Parigi, e invece il caos che esce dal voto ad Atene, Atene che rischia la paralisi, scrive la Stampa, ma non è il KO dell'Unione, così scrive comunque questa mattina la Stampa. La Grecia ha forse un Parlamento senza maggioranza, polarizzato verso gli estremi, ma altrove i risultati dei voti di ieri sono tutt'altro che distruttivi, cioè comunque un segno di ottimismo, almeno in quel che scrive oggi la Stampa. Qualche altra segnalazione dai quotidiani di oggi. Il Sole 24 Ore in edizione del lunedì, l'apertura la dedica alla casa e a quanto ci costerà la casa, perché non c'è solo l'IMU, c'è la tassa dei rifiuti, l'acqua, l'energia. Ebbene, gli effetti delle nuove imposte e dei ritocchi tariffari sulle spese delle famiglie per l'abitazione, così decide di aprire questa mattina il Sole 24 Ore del lunedì. Il conto aumenta del 20%, rincaro medio di circa 500 euro, così le non certo buone notizie sul fronte della casa messe in evidenza quest'oggi dal Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, dal quale vi segnalo anche altre notizie di giornata. Sempre meno giovani negli archivi del fisco. Che succede? Che in due anni sono spariti oltre 200.000 contribuenti under 25, in calo del 12% dal 2009 al 2011. Il trend negativo riguarda anche i redditi dichiarati. I giovani sempre meno contribuenti perché sempre meno lavorano. E poi le città invece che fanno business con cosa? Con l'arrivo del Giro d'Italia, un indotto di 110 milioni di euro e tante occasioni di visibilità. Il Giro d'Italia, che conclude oggi il suo prologo danese, mercoledì riprende da Verona e sarà un forte veicolo di promozione, così sul Sole 24 Ore di oggi. Poco altro sulle prime pagine dei quotidiani, dominate davvero naturalmente dalle notizie politiche, però un paio di segnalazioni ci sono, uno dal Corriere della Sera che riguarda ancora gli sprechi della pubblica amministrazione, spesa sanitaria e altro, la Campania schiacciata da 13 miliardi di vecchi debiti, Sergio Rizzo che va a fare i conti in tasca alla Campania. E poi la Repubblica, i petrolieri si arrendono, i prezzi della benzina scenderanno, l'extra bonus sui carburanti ci costa 190 milioni al mese, sarà così? Saranno davvero pronti ad arrendersi i petrolieri? Beh, l'annuncio questa mattina sulla Repubblica è che i prezzi della benzina dovranno scendere. Vedremo se sarà così. Nel frattempo, dopo questa carrellata, voltiamo pagina, lasciamo almeno per ora le prime pagine dei quotidiani per tornare a quella che è stata la festa torinese della notte con lo scudetto assegnato alla Juventus. La Juve torna a vincere questa sera. Che significato ha per te? Torino. È una bella emozione dopo tutto quello che è successo in questi anni, sicuramente. Questa sera ci credevate in questa vittoria o avete temuto? Beh, penso che la meritavamo fin dall'inizio, quindi no, non abbiamo temuto nulla. Pensavo di più domenica prossima, ma va bene così. Festeggerete tutta la notte? Beh no, domani andiamo a lavorare, quindi non credo. Ce lo meritavamo, è stato sudato, ma ce lo meritiamo tutto. Gli altri rosicano. Come è giusto che sia. Ci avete sempre creduto in questa vittoria per tutto l'anno? Sì, assolutamente sì. Ci abbiamo creduto, è grande Conte perché ha ridato spirito alla squadra, grande. Così dunque la notte torinese, non lunghissima per qualcuno come avete sentito, beh stamattina ovviamente è lunedì e in molti siamo già a lavorare e allora i titoli dei giornali in edicola, la Gazzetta dello Sport, Juve è tuo, l'Inter rulla il Milan e le dà lo scudetto, firmato Agnelli, l'editoriale questa mattina di Andrea Monti sulla Gazzetta dello Sport, tutto in una notte, che formidabile notte, 6 anni dopo la discesa agli inferi, la Juve ritrova con merito indiscutibile la gloria e le chiavi del paradiso, a consegnargliele nei panni di San Pietro e Diego Milito, lo specialista in triplete che veste la maglia nerazzurra, quella degli arcinemici di oggi e di sempre, il diavolo finisce all'inferno, il posto che gradisce di meno, così sulla Gazzetta dello Sport, carrellata degli altri titoli scelti questa mattina dai quotidiani, il trionfo della Juventus è campione d'Italia per la Repubblica, grazie al derby ha vinto l'Inter, il Corriere della Sera e la stampa di Torino, Juve campione uno scudetto senza mai perdere, i bianconeri battono il Cagliari a Trieste, festa nella notte a Torino, così sui quotidiani italiani, una piccola pausa, riepiloghiamo le notizie di oggi e poi torniamo a parlare di questo e delle altre notti delle piazze europee. Prima edizione con le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. È il 7 maggio, una buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi. La puntata odierna la dedichiamo alla musica indipendente nel nostro paese, al mercato, agli artisti, ai promoter, ai tour manager. Il reportage di Martina Zenton. Credo che i network dei fondi commerciali siano tra i principali colpevoli del ritardo culturale e musicale del nostro paese, perché sono appiattiti su quelle 8-10 canzonette pop di successo. Questa è l'accusa mossa ai grandi network radiofonici da Giordano San Giorgi, patron del MEI, festival vetrina della scena musicale indipendente italiana dal 97. La sua non è una voce solitaria, da anni infatti addetti ai lavori, i sindacati e i musicisti stessi chiedono che in Italia, come ad esempio in Francia, venga imposto l'obbligo di trasmettere una percentuale fissa di musica nazionale, tanto più emergente, all'interno dei palinsesti. Questo per valorizzare il patrimonio culturale, dicono, e per evitare un appiattimento sonoro tanto dannoso quanto poco proficuo. Ed è di questo ultimo punto che si parla quando oltre un centinaio di etichette indipendenti presenti oggi in Italia faticano a trarre profitto dai loro prodotti musicali. Una quantità notevole, tanto da aver acquisito negli anni il 25% del mercato musicale. San Giorgi, come si è arrivati a questo risultato? Ci sono state almeno 3 fasi dalla metà degli anni 90 ad oggi. Diciamo che c'è stata la fase crescente del boom della discografia indipendente fino ai primi anni 2000. Dal 2000-2005 un assestamento in crescita esponenziale, portando la discografia indipendente sicuramente ad avere una quota di mercato pari circa 25%, mentre negli anni 80 in Italia erano di pochi punti percentuali. Una nuova fase che è stata quella dell'avvento dei siti, dei blog e di tutti gli strumenti di diffusione online per lo scambio peer-to-peer dei file MP3, mentre oggi siamo in una terza fase che supera i siti e arriva a quella dei social network, dove c'è una condivisione totale dei contenuti. Il meeting delle etichette indipendenti con l'avvento della digitalizzazione, onda cavalcata e non respinta dai piccoli produttori indipendenti, al contrario delle major, arriva ad avere 2 edizioni, la consueta a Faenza e il Medimex a Bari, dedicato proprio al web. Ma quando si parla di musica si parla anche di un motore economico, Ecco, si parla di locali dove si fa musica, tra l'altro spesso disincentivati dal farlo, dall'eccessivo carico fiscale. Si parla di eventi per la cui organizzazione si muove un consistente numero di soggetti e più in generale si parla di quella che viene definita economia culturale. E proprio a Marco Mazzoli, docente di economia all'Università Cattolica di Milano, oltre che musicista, chiediamo un'analisi del profilo economico della cultura. Un economista molto ortodosso come Baumol mostrava che la cultura ha un peso assolutamente decisivo nella crescita economica e nello sviluppo economico, non solo perché stimola in generale la creatività, ma anche perché ha un effetto moltiplicativo. Era Italia in controluce, il mercato della musica indipendente torna oggi alle 13.30 su Radio 24. Grazie Daniele Biacchessi con Prima Edizione, 6:38 minuti, ancora buona giornata, ben svegliati da Anna Migliorati. Noi torniamo invece alla notte appena conclusa con le sue vittorie e le sue sconfitte in Europa su molti fronti. E allora sentiamo, andiamo a Parigi, un balzo a Parigi. No, non ce la facciamo a farvi riascoltare cosa è successo questa notte, ce la facciamo invece a farvi ascoltare cosa sta succedendo in questi minuti. Questa mattina un po' concitata sul fronte tecnico, qualche problemino, ma ci ha raggiunto intanto il nostro Sergio Nava da Parigi, buongiorno. Buongiorno. E anche Vittorio Darold, Atene, buongiorno. Calimera, buongiorno. Calimera, va benissimo. Mi sembra giusto, Vittorio Darold. Allora, il nuovo volto dell'Europa, avevamo detto venerdì, ve lo racconteremo lunedì mattina, quindi a questo punto ci siamo. Vediamo che è successo. E allora, Sergio, ieri sera com'è andata la tua lunga notte? Ma ieri sera è stata una serata di festa, veramente incredibile a Parigi, almeno a Parigi, la gauche di Parigi, la sinistra che dopo 17 anni è tornata all'Eliseo, ma è veramente, secondo me, incredibile raccontare le scene di festa per strada, le migliaia e allora migliaia di giovani. Ce la facciamo, Sergio, ve la facciamo sentire. Sentiamo. Potete ascoltare migliaia di persone in Rue Solferino che stanno in questo momento attendendo l'annuncio ufficiale. Countdown, attenzione, è praticamente pochissimi secondi e in questo momento l'annuncio. François Hollande, presidente della Repubblica Francese, ore 20 in punto, siamo a Parigi, Rue Solferino, François Hollande, presidente, e Rue Solferino sta esplodendo. Sergio, che effetto fa risentirlo? È un'emozione, è difficile perché poi ovviamente, come dire, fa venire i brividi, è una festa di parte ovviamente, non è la festa della Francia, è la festa della gauche francese, però quello che posso dire è che la speranza di questi simpatizzanti è vera, cioè ho letto nei loro occhi, nelle loro lacrime, nei loro abbracci, una vera speranza di cambiamento, è quello che secondo me colpisce davvero. E l'altra cosa, e i giornali questa mattina parlano proprio di grande affluenza nel voto francese, che contraddistingue un po' una Francia che prova a voltare pagina. Non è andata esattamente così in Grecia, dove ci sono più timori che speranze, Vittorio? Sì, esattamente, la Grecia ha detto no all'austerità dopo 5 anni di recessioni e un PIL che ha perso il 20% dal 2009. I partiti pro-Europa sostanzialmente vanno al 32% del voto, quindi sono in netta minoranza nel paese contro il 68% di tutti gli altri partiti che sono contrari al salvataggio europeo con questa forma dell'austerità. E quindi, nonostante un premio di maggioranza che la legislazione greca concede al primo arrivato di 50 seggi, i due partiti storici, il Partito Conservatore di Neodemocrazia e il Partito Socialista del PASOK, che hanno governato per 40 anni il paese, non raggiungerebbero nemmeno una maggioranza e sarebbero costretti a cercare un altro partito o almeno uno, un alleato. Vittorio, con quale ricetta per l'Europa esce Atene da questo voto? Atene manda un messaggio molto chiaro: rinegoziare il sistema di aiuti che erano condizionati a tagli molto feroci, perché a giugno il nuovo governo dovrebbe, secondo i patti sottoscritti, tagliare altri 11 miliardi di euro in salari e pensioni. Questo è il messaggio: non si può continuare ad avere solo austerità, ci vuole anche la crescita. In qualche modo è un messaggio che si lega però alla svolta di Parigi, ed è e un messaggio proprio contro la Merkel. Contro la Merkel, Sergio Nava, infatti a te andava la mia prossima domanda, perché con quale invece messaggio esce la Francia da Parigi? Lo stesso già ci anticipava in qualche modo Vittorio Darold. Sì, per paradosso potremmo dire sì, è una Francia che dice ora si cambia, François Hollande l'ha detto chiaramente, gli elettori di sinistra l'hanno detto chiaramente, è una Francia che dice ora si guardi alla crescita, ora basta questa formula così rigida dell'austerità. Penso che le due elezioni, lo si prevedeva, ma ora è arrivata anche la conferma, se ne erano una svolta molto molto forte in Europa, a livello proprio di guida politica, di politiche anche che dall'austerità passeranno necessariamente la crescita. L'Italia lo ha già colto, il messaggio ieri di Mario Monti è stato molto molto chiaro. È stato proprio questo. Allora, grazie Sergio Nava, grazie Vittorio Darold, ci risentiremo nel corso della giornata con Radio 24 ancora per raccontarlo questo giorno dopo il voto. Grazie ad entrambi. E allora l'ultimo tassello, vale a dire l'Italia, invece ve lo do io, perché dopo i voti in Francia e in Grecia appunto serve una svolta, sono state le parole di Mario Monti, che ha alzato già il telefono ieri sera e contattato direttamente i principali leader europei: François Hollande, Angela Merkel, David Cameron, Herman Van Rompuy. A tutti ha ripetuto lo stesso concetto: il risultato delle elezioni ci dice che ora serve anche la crescita dopo il necessario rigore. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Grazie Vittorio Darold. E ci ha già salutato Vittorio Darold da Atene. Questo quello che è accaduto in Europa ieri sera con il voto. Che accadrà questa mattina invece sui mercati, il traffico, e cercheremo di capirlo tra poco. Prima edizione. E allora questo è il dato politico della svolta in Europa. Quale il dato sui mercati? Già vi do la borsa di Tokyo, ve l'ho data dalle primissime ore di prima edizione, meno 2,41%, perdeva attorno al 2,8% circa 45 minuti fa Tokyo, meno 2,40% in questo istante. Comunque il dato è quello di un netto calo. Perché? Perché ai mercati non piace questo esito elettorale, ma davvero oggi non piacerà neanche alle borse europee? Allora, per cercare di capirlo, io saluto Luca Bagato, consulente finanziario e amministrativo unico di Macro Markets, ormai lo conoscete a prima edizione, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. I segnali sono così negativi questa mattina sui mercati? Sì, diciamo che il mercato temeva ovviamente questa situazione di cambiamento in Francia, che chiaramente punisce la presidenza precedente, ma soprattutto getta qualche ombra sui rapporti futuri con Berlino e anche con Washington. Anche la posizione di Hollande nei confronti della NATO non è delicata come quella di Sarkozy, e dall'altro punto di vista non va dimenticato che anche le elezioni in Grecia sono state piuttosto confuse, hanno punito tutti e due governi di maggioranza, sia Nuova Democrazia che PASOK, il che non aiuta a pensare a una soluzione greca da un punto di vista proprio dei rischi di mercato a breve. Ecco, questo e i mercati aumenta. Non amano l'incertezza innanzitutto. Sì, l'incertezza, devo dire, probabilmente non amano la novità immediata. Poi se ben vediamo, se andiamo ben vedere nel futuro, probabilmente qualche segnale invece positivo arriva, perché la posizione di Monti e del governo spagnolo per la crescita, la posizione diversa di Hollande anch'esso a favore della crescita, probabilmente getteranno per quanto riguarda l'Europa forse delle basi per qualcosa di nuovo che potrebbe aiutare anche una soluzione alla posizione della BCE, che rimane incastrata chiaramente in questa necessità di mantenersi allineata con i piani appunto di austerità e di organizzazione delle vicine di banche centrali, stabilita anche diciamo, dell'influenza della Bundesbank con la necessità di finanziare la crescita che in questo momento è effettivamente in Europa a un livello troppo basso. Troppo basso. Tutti guardavano alla Germania e non certo con favore dalle prime dichiarazioni del dopovoto, ci hanno raccontato i nostri inviati. E allora sul fronte del temutissimo spread, che dobbiamo temere o aspettarci oggi? Ma io non penso succeda molto sullo spread, ho visto le prime quotazioni già qualche minuto fa, in realtà è un po' sceso il rendimento del Bund tedesco, addirittura siamo intorno a 1,58, ci siamo leggermente allargati noi e la Spagna, ma di pochi, una manciata di basis point, e la Francia addirittura ha stretto di qualcosa. In realtà secondo me la pressione in questo momento è maggiore sul cambio, perché subito in apertura abbiamo sfondato il livello di 1,30 ed è possibile che continuiamo una convergenza anche fino a livelli inferiori a 1,29. E dall'altro sui mercati azionari, non dimentichiamo infatti che in questo momento c'è una pressione maggiore sui mercati azionari, però devo dire da un paio di settimane che anche noi stiamo seguendo la cosa in questa maniera, pensiamo ci sia più pressione per i paesi core, quindi Germania e Francia, rispetto ai paesi periferici. Dopotutto noi la crisi abbiamo in qualche modo già vissuta e macinata all'interno dell'azionario, i paesi core, soprattutto la Germania, fino adesso hanno vissuto un po'... in realtà al di fuori di queste situazioni. Insomma, per una volta potremmo essere nell'occhio del ciclone noi e quindi un po' più tranquilli, e potrebbe toccare ad altri. Vedremo se succederà davvero così. Nel frattempo, grazie per questo quadro. Prima già dell'apertura dei mercati, grazie Luca Bagato, consulente finanziario e amministratore unico Macro Markets. Buona giornata, buon lunedì, speriamo sui mercati. Toccando ferro, naturalmente. Torniamo ancora ad un'altra piazza che non è stata elettorale ieri sera, ma di vittoria scudetto. E allora così, subito dopo, Conte è assediato dai microfoni a Torino. Le sensazioni sono qualcosa di bello, di fantastico, di straordinario. Siamo veramente contenti di aver coronato un'annata straordinaria sotto tutti i punti di vista, che è diventata super straordinaria. Merito di questi ragazzi, della loro disponibilità, merito di tutti questi tifosi che hanno creduto subito in noi, e niente, onore anche ai vinti, perché abbiamo affrontato un avversario sicuramente fortissimo come il Milan, quindi complimenti a loro, però abbiamo vinto noi. E vabbè, è andata così, e allora un graffio su questa Juve, però lo chiediamo al nostro Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì, un graffio sulla Juve, nel senso che ieri è successo di tutto, perché si sono viste cose incredibili con i tifosi juventini, che come noto non hanno grande simpatia per l'Inter, che esultavano per i gol nerazzurri che consegnavano agli juventini il tricolore. Beh, bisogna dire che 6 anni dopo la discesa agli inferi, la squadra di Conte ritrova il paradiso cosiddetto perduto. In mezzo ci sono anni di polemiche che neppure la festa placa, perché Marotta, l'amministratore delegato juventino, dice lo scudetto numero 30 in realtà sarebbe il 28esimo per le note vicende di Calciopoli. Ma insomma, ho l'impressione che questo cerchio di Calciopoli, tutte le polemiche, forse sia arrivato a un capolinea di un lungo percorso tribolato. Di Conte va detto una cosa, che è stato un buon direttore d'orchestra, un direttore che ha fatto vincere l'orchestra e non i tenori, e quindi è andata bene così, merita questo scudetto. Lo scudetto davvero dal nemico al nemico, insomma. Esatto, sì. Potremmo chiusare così. Non ce ne voglia Alessandro Milan, che arriverà puntuale alle 7:20. Nel frattempo grazie anche a Dario Ceccarelli, Diego Rovelli in regia, Peter Bescapè resta con voi. Ancora buon lunedì, buona giornata da Anna Migliorati. Noi ci sentiamo tra pochissimo con GR24 e ripartiremo ancora da qui tra poco.